Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. God, our God, has blessed us. From him we have received mercy. Assured of God's love, go out to the world. Ego sum resurrectio et vita. Più pop questo Papa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché questo, pensate, un disco, come l'avete sentito all'inizio, era la sua voce, quasi un rap, e questo è un disco che si può scaricare adesso da iTunes, si chiama Wake Up, un disco che raccoglie gli estratti degli 11 discorsi più significativi che il Pontefice ha tenuto un po' in giro per il mondo, e sono intervallati, come sentite, da altrettanti brani musicali che si rifanno alla tradizione cristiana. Il CD sarà in vendita, per chi lo volesse comprare, nei negozi il 13 novembre, proprio una rivoluzione comunicativa questa del Papa, no? Quanto la comunicazione diventa sempre più importante, lo vediamo nella politica italiana e lo si vede addirittura con quello che è il capo della Chiesa Cattolica nel mondo. Ma noi adesso andiamo su questioni più prosaiche, perché parleremo questa sera, ultima sera della settimana, perfetto notte, poi ci risentiamo lunedì, di politica. Come sempre ci sarà un bilancio della politica italiana di questi giorni, gli argomenti sono moltissimi e voi come sempre potete esprimere le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure mandando i messaggi al 349-238-6666, la pagina Facebook alla quale potete aderire costantemente senza indugio dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, oppure gli sms che potete inviare al 349-238-6666. Poi ci occuperemo anche del giallo di Pordenone, vi ricordate quei due ragazzi, una ragazza e un ragazzo uccisi davanti a una palestra nel marzo scorso a Pordenone, un giallo, si era parlato di omicidio-suicidio come di un femminicidio classico, insomma, oppure si parlava di piste dall'est, di droga, di cose. Invece adesso nel registro di indagati c'è una persona, è un 26enne, un militare amico del ragazzo ucciso. Poi ne parleremo e ripercorreremo anche le tappe di queste indagini di 6 mesi. Ci occuperemo anche del Papa all'ONU, oggi ha tenuto il suo discorso, e poi il meteo, come sempre il venerdì, se vi aspettate un fine settimana, avete dei progetti, oppure anche se state in casa, volete sapere che tempo fa. Poi parleremo, magari, se c'è tempo, anche dell'eclissi, che potrebbe essere la più bella degli ultimi 33 anni. Però adesso vi riassumo, come sempre, la giornata e poi cominciamo dalla seconda parte a entrare nei temi in modo più approfondito. Il Papa all'ONU, nel suo discorso Francesco chiede casa, lavoro, terra e libertà per tutti e stop alla guerra nucleare. Poi incontra le famiglie delle vittime dell'11 settembre. Lo scandalo Volkswagen, cambio al vertice del gruppo, arriva Müller della Porsche e Berlino ammette: da noi 2.800.000 i veicoli irregolari e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avvia un'indagine. La svolta della Cina, intesa del presidente Xi con Obama per rafforzare l'impegno sul clima e anche sui cyberfurti. Bielorussia, il presidente bielorusso ha annunciato che verrà eretta una barriera al confine con l'Ucraina per evitare che il banditismo si diffonda nel suo paese. Migranti, il ministro dell'interno tedesco Maizer critica la cancelliera Merkel per la decisione di far entrare in Germania i profughi bloccati in Ungheria. La coppia uccisa a Pordenone, c'è un indagato e un amico di Trifone, un militare di 26 anni. Le ombre del calcio, Blatter ancora sotto inchiesta, soldi sospetti anche a Platini e in Qatar, primi mondiali d'autunno, la finale a dicembre. Partiamo quindi da questo storico discorso che il Papa ha tenuto oggi all'ONU, in questa sua specie di tour de force negli Stati Uniti, e ad ascoltarlo, a parte i capi di Stato e di Governo come Angela Merkel o la Presidente del Cile Bachelet, c'erano molte personalità di fama mondiale come Bill Gates con sua moglie e la giovane premio Nobel Malala. Ma quali sono stati i temi centrali? Ce lo racconta Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Mi pare la difesa dell'ambiente, che poi è stato anche il tema centrale dei colloqui tra Obama e il presidente cinese, e la lotta contro l'esclusione, no? Stop alle armi nucleari. Sì, sicuramente i diritti umani in senso lato, compresi i diritti economici, appunto la lotta per la protezione dell'ambiente, della natura, di questo dono divino. Come ha detto il Papa, e la lotta all'esclusione sociale, all'ingiustizia sociale. Una frase forse per riassumere il messaggio che il Papa ha dato all'Assemblea Generale dell'ONU: una sete egoista, detto, infinita di potere, di prosperità materiale, ha portato al cattivo uso, all'abuso delle risorse naturali e all'esclusione dei deboli e degli svantaggiati. Ecco, in questo concetto si riassume poi tutta la forza morale della denuncia del Papa, che, come ricordavi, ha anche poi chiesto un mondo libero da armi nucleari, libero dal traffico di persone, libero dal traffico di droga, di armi, dal terrorismo, dalla violenza, dagli abusi e dalla violenza nei confronti delle minoranze, comprese ovviamente le minoranze cristiane nel mondo. Poi, a proposito di minoranze, che poi non è neanche tanto minoranze, comunque parleremo di un ennesimo fatto di cronaca che riguarda sfondo razziale, parrebbe anche questo, però prima il Papa è stato anche a Ground Zero, no? Ha incontrato le famiglie delle vittime dell'11 settembre. Assolutamente, questo è stato il secondo momento di grande forza, di grande impatto emotivo della giornata newyorkese del Papa. Si è poi recato al Memorial del 12 settembre in una cerimonia privata, interconfessionale, quindi con la partecipazione di musulmani, ebrei, cattolici, buddisti, quindi una grande cerimonia unitaria. Il Papa ha ricordato come questo luogo, in questo luogo si respiri profondo dolore, ma sia anche una testimonianza della forza della vita contro la distruzione, contro le forze della distruzione. Marco Balzani, poi c'è stato, diciamo, lui ha posto l'attenzione sulla questione clima sia ieri al Congresso americano, poi sia oggi soprattutto, no? Il consesso dell'ONU. C'è stato poi questo incontro di Obama anche col presidente cinese, c'è stata una specie di svolta storica da parte della Cina, dovrebbe essere il paese più inquinante del mondo, finora mi pare si fosse un po' rifiutato, no? Di cercare di trovare delle misure per tagliare un po' i gas serra e gli scarichi, insomma, nell'ambiente, di combattere l'inquinamento. Invece adesso c'è stato un accordo con Obama. Sì, diciamo, uno dei forti accordi di questo vertice proprio sul clima. Ricordiamo che Obama e Xi avevano già raggiunto un accordo di massima lo scorso novembre per la riduzione progressiva delle emissioni dell'effetto serra, delle emissioni del cambiamento climatico. Ecco, adesso hanno messo, il leader cinese in particolare ha dato concretezza a questo accordo, ha detto che la Cina entro il 2017. Stiamo sentendo Obama in sottofondo, Marco, che parla appunto in conferenza stampa poi nella questione ambiente. Esatto, lancerà, diciamo, la Cina un sistema di cap and trade per ridurre le emissioni su scala nazionale. Questa è sicuramente una svolta che è stata anche applaudita da associazioni ambientaliste, un modello tra l'altro che è di libero mercato e inventato, diciamo, da economisti americani, in cui si fissa un tetto per le emissioni a livello nazionale e poi i settori e le aziende possono scambiare, possono vendere e comprare permessi di inquinamento purché rimangano sotto questo tetto complessivo, per raggiungere appunto come risultato la lotta ai gas dell'effetto serra. La Cina ha anche promesso finanziamenti per oltre 3 miliardi di dollari ai paesi più poveri proprio per favorire la lotta alle emissioni, e quindi, diciamo, nell'insieme un significativo passo avanti, soprattutto in vista poi dell'assemblea della conferenza dell'ONU di Parigi a dicembre, proprio sul cambiamento climatico, in cui Obama e Xi potrebbero essere protagonisti. Senti, poi un accenno anche, Marco, a questo, non so se l'ennesimo omicidio a scopo razziale di un nero, di un afroamericano che era sulla sedia a rotelle da parte di poliziotti bianchi. Non si sono capiti bene per il momento i contorni della vicenda, no? Sì, una vicenda che rimane drammatica e su cui sono aperte inchieste, a cominciare da quelle delle autorità locali. Quello che si sa appunto è che quattro poliziotti hanno ucciso un ragazzo di 28 anni afroamericano in sedia a rotelle, e sostengono i poliziotti che lui stesse estraendo un'arma, e a quel punto loro hanno sparato, ma c'è la famiglia dice che non è al corrente del suo possesso di alcuna arma da fuoco, e quindi è aperta la polemica sull'uso della violenza da parte della polizia, una polemica che, come ricorderanno tutti, è negli Stati Uniti è aperto ormai da parecchio tempo, perché ci sono molti precedenti. Marco Balsani, è ancora da chiarire questa vicenda, ma purtroppo sembra rientrare un po' in questo filone. Grazie intanto da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. Siamo allo scandalo di Volkswagen. I veicoli circolanti in Germania coinvolti in questo scandalo dei test truccati da parte del gruppo sono 2,8 milioni, e fra questi vi sarebbero anche vetture di cilindrata 1200, inferiore a quanto finora pensato, anche dei furgoni. Questo l'ha dichiarato il ministro dei trasporti tedesco Dobrindt, aggiungendo che le manomissioni sono senza dubbio illegali. Nel frattempo il consiglio di amministrazione di Volkswagen ha nominato il nuovo amministratore delegato, che è ex numero uno di Porsche, Matthias Müller, il nuovo amministratore dopo che Martin Winterkorn ha lasciato con quella, diciamo, consolazione monetaria di cui abbiamo parlato ieri. E il Dipartimento di Giustizia americano fa sapere che condurrà un'indagine su Volkswagen e le accuse di violazione delle norme antismog, accuse che prendono molto seriamente. Sentiamo come va avanti invece l'inchiesta italiana. Per ora nessun interrogatorio di testimoni o esame a carico di persone informate dei fatti, soltanto accertamenti per verificare la competenza territoriale della Procura di Torino nella vicenda Volkswagen. A chiarirlo una nota del procuratore capo Armando Spataro a seguito dell'inchiesta avviata nei giorni scorsi dal PM torinese Raffaele Guariniello. Le ipotesi di reato sul piatto sono quelle di frode in commercio e disastro ambientale. Guariniello avrebbe aperto un fascicolo contro ignoti per appurare eventuali aggiramenti delle norme anti-emissioni dei motori diesel da parte del produttore tedesco commessi in Italia. E mentre lo scandalo del Dieselgate rischia di coinvolgere altre case produttrici, con l'Europa che punta a modificare le regole per realizzare le prove su consumi ed emissioni delle vetture, cresce la preoccupazione fra le aziende italiane della componentistica automotive, che verso la Germania esportano ogni anno per circa 4 miliardi di euro. Un rallentamento sul mercato dei modelli coinvolti dallo scandalo potrebbe avere ripercussioni sul tessuto industriale. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E sapete che il titolo Volkswagen, insomma, ha inciso non poco sui mercati in questi giorni. Beh, i listini europei rimbalzano intanto nell'ultima seduta della settimana. Le parole del presidente della Fed, Janet Yellen, che ha confermato l'intenzione di aumentare i tassi entro fine anno, e il ridimensionamento dello scandalo sul settore auto dopo che è stato smentito il coinvolgimento di BMW, hanno riportato gli acquisti. A Milano il FTSE MIB ha chiuso a più 3,68%. A proposito di emergenza migranti, vedo adesso un aggiornamento dell'OIM, dell'Organizzazione Internazionale dei Migranti, che dice che oltre 500.000 di migranti hanno attraversato il Mediterraneo finora nel 2015, secondo le più recenti stime. I morti finora nel tragico viaggio, quasi tutti annegati, sono stati quasi 3.000. E c'è anche questa notizia della Bielorussia, che vuole costruire un muro ai confini con l'Ucraina, perché dice in questo modo vogliamo combattere il banditismo. Andiamo sulle notizie italiane con la cronaca. A Napoli, in gravi condizioni il poliziotto ferito ieri. A Napoli è diventata una caccia all'uomo anche tramite Facebook, con tanto di foto segnaletica e numero di targa dell'auto da trovare. La ricerca della persona che nel quartiere fuori grotta ha sparato all'agente della squadra mobile partenopea Nicola Barbato, che ora è ricoverato in gravissime condizioni. Il capo della polizia, Alessandro Pansa, ha fatto visita in ospedale al poliziotto colpito mentre in abiti civili stava svolgendo un'operazione anti-estorsione. Stando ad una ricostruzione della polizia, l'aggressore è entrato nell'auto civetta dove si trovava Barbato e ha sparato quasi a bruciapelo. L'agente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico dopo che almeno un proiettile l'ha ferito alla nuca ed è poi fuoriuscito da una spalla, provocando una serie di lesioni che al momento non è possibile quantificare. Un 28enne con precedenti è stato fermato dalla polizia, ma non è stato lui ad aver sparato l'agente. L'uomo era indagato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'associazione Antiracket ha organizzato per domani mattina una catena umana davanti al palazzo della Questura di Napoli, in segno di solidarietà con l'agente ferito che, come afferma il presidente onorario, stava svolgendo un'operazione di sostegno nei confronti di un commerciante iscritto la nostra associazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è, vi dicevo dall'inizio, una svolta nel giallo della coppia uccisa a marzo a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. C'è un indagato e un militare di 26 anni amico del ragazzo ucciso. Poi ne parliamo in modo più approfondito. Invece la notizia che arriva da Cesena: è stato trovato morto il bambino disperso mentre faceva il bagno con alcuni amici nel fiume Savio, nella frazione San Carlo, alle porte di Cesena, nei pressi della E45. Si tratterebbe di un bambino di origini nordafricane. E siamo agli scandali del calcio mondiale. Il procuratore generale della Svizzera ha aperto un procedimento penale contro il presidente della FIFA, Blatter. Il numero uno della Federcalcio mondiale, che è già stato interrogato, è sospettato di gestione fraudolenta e appropriazione indebita. L'inchiesta, tra l'altro, coinvolgerebbe anche Michel Platini. Si sospetta da parte del presidente della FIFA un versamento illegale di 2 milioni di franchi svizzeri a favore dell'allora vicepresidente per lavori forse falsamente avvenuti tra il 1999 e il 2002, però Michel Platini, numero uno dell'UEFA, replica: sono stato pagato per un lavoro che ho svolto, così ha detto in una dichiarazione. Ci fermiamo qui, questo è il riassunto della giornata, tra poco cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Per voi, come sempre, per le vostre opinioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, per i messaggi 349-238-6666. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco quindi parliamo, cominciamo a fare questo bilancio della politica di questa settimana, piena di cose, zeppa di fatti, vediamo cosa riusciamo a rielencare e anche ad analizzare tra poco col vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché. Intanto però, se avete acceso in questo momento, anziché puntualmente alle 21, vi ricordo comunque le notizie più importanti della giornata. Il caso Volkswagen, Müller è il nuovo CEO, supereremo la crisi, dice il nuovo amministratore delegato, e Renzi duro dichiara: è una truffa e va punita severamente. Il Papa oggi all'ONU, casa, lavoro, terra e libertà per tutti, chiede di ampliare la partecipazione alle decisioni e stoppa anche la guerra nucleare. E poi accelera l'economia statunitense, più 3,6%, ma frena un po' la locomotiva tedesca. La svolta della Cina ha rafforzato l'impegno sul clima, quindi c'è un'intesa tra il presidente cinese e Obama, anche sui cyberfurti di dati ad aziende. La Spagna teme la secessione catalana, caccia gli indecisi domenica, voto sulla secessione. Questa è una cosa che riguarda importante, che riguarda la Spagna. E poi invece per la cronaca italiana, il poliziotto ferito a Napoli, forse è stato un errore di persona. E sempre per la cronaca c'è una svolta sulla coppia uccisa a Pordenone, è indagato un amico del ragazzo ucciso, ne parleremo poi più tardi. E poi nuova bufera sulla polizia americana, ha ucciso un nero in carrozzella, la vittima ha 28 anni, è un disabile, la madre dice non era armato. E poi anche Platini nello scandalo FIFA, prese soldi da Blatter, il presidente indagato per sospetto pagamento illecito di 2 milioni. Quindi è il momento del bilancio della politica italiana, con digressioni eventualmente su altri temi se avremo tempo. Intanto saluto Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Quindi diciamo questa settimana principalmente caratterizzata per quanto riguarda la politica italiana, governo opposizioni sempre alle prese con le riforme, principalmente quella del Senato, il ricompattamento diciamo del PD, del partito dopo la direzione che c'è stata lunedì, i travagli con crisi di identità del centrodestra, anche se ho visto poco fa al convegno di Atreio, questo dei tradizionale appuntamento dei giovani del centrodestra, che Maroni ha lanciato il ticket Salvini-Meloni per il centrodestra. Dice sarà in questo modo ci sarà la vittoria del centrodestra. Poi mi dice se ti convince questo possibile connubio. Il dibattito anche questa settimana dicasi tira e molla, direi, sulle pensioni, il tema sempre in primo piano dell'immigrazione, poi molte altre cose. Però io direi, Fabrizio, di iniziare dal dibattito sulle riforme, no? Dopo la direzione del PD, la riluttanza della minoranza del Partito Democratico si è un po' ammorbidita, anche se è proseguita la tensione tra PD e il presidente del Senato Grasso. Allora, per descrivere brevemente un po' questa atmosfera di questi giorni, farei sentire prima Renzi a proposito della direzione del PD e di avvertire circa il rischio di scissione con la minoranza. Mi limito casomai a prendere atto che le scissioni funzionano molto come minaccia, un po' meno al passaggio elettorale. Chi di scissione ferisce, di elezioni perisce. Anche sto Varoufakis, per utilizzare un tecnicismo, se lo siamo tolti. Ecco, poi Varoufakis se l'è presa un po', ha scritto un tweet a sua volta Renzi, c'è stato un po' un ping pong insomma di botta e risposta. Renzi poi ha detto anche una cosa, aveva detto una cosa un po' forte relativamente alle possibili azioni che poteva intraprendere il presidente del Senato Grasso, poi se le un po' rimangiate, ma sentiamo. C'è un punto da chiarire: che cosa fa il presidente del Senato? Io lo dico con molto rispetto. Il Presidente del Senato ha lasciato intendere che potrebbe aprire alla modifica di una norma già approvata con una doppia conforme. Nel qual caso, se apre su questo, credo che sarà opportuno convocare una riunione di Camera e Senato, trattandosi di un fatto che avrebbe le caratteristiche dell'inedito. Già c'è il bicameralismo perfetto e paritario. Se poi non basta neanche quello. Credo che sicuramente inedito sia, Fabrizio, il volume di emendamenti presentato dalla Lega grazie a Calderoli, che ha inventato questo algoritmo, io non ho capito ancora bene in cosa consista, e ha creato 85 milioni di emendamenti. Sentiamo quando spiega. L'algoritmo. L'algoritmo. Che introduce una quarta, tra virgolette, dimensione che teoricamente, a seconda dell'inclinazione dell'asse, può produrre emendamenti all'infinito. Può essere usato anche per altri provvedimenti. Sono una difesa della democrazia, perché questa riforma è una riforma veramente pericolosa e rischia di mettere un uomo solo al comando, modello fascismo o nazismo. Poi Calderoli ha anche scritto un tweet in serata dicendo: disposto a tutto pur di mandare Renzi a casa. Renzi aveva detto che era ridicolo questo modo di creare emendamenti della Lega, anche Grasso aveva detto che era una offesa alla dignità delle istituzioni. Insomma, piano piano però si sta arrivando a una specie di mediazione, mi sembra, Fabrizio, sulla riforma del Senato. Sì, io credo che anche nell'ostruzionismo c'è un modo entro il quale bisogna poi restare. 82 milioni di emendamenti non è ostruzionismo, è un'offesa, credo, davvero alle istituzioni, per cui non capisco perché Calderoli, che poi è un leghista anomalo, è uno anche capace di discutere dei contenuti, credo che... Ne ha ritirati 10 milioni però, nelle ultime ore 10 milioni ne ha ritirati, siamo 72 milioni. Temo che l'effetto non è sufficiente. Calderoli nella parte iniziale di questa, del percorso del disegno costituzionale aveva contribuito in realtà a migliorare questo disegno di legge costituzionale, che non nasce bene, è una legge scritta rapidamente con diverse incongruenze, e in una prima fase proprio il lavoro anche di Calderoli ha contribuito a migliorarlo, quel disegno di legge, per cui poi invece questo atteggiamento finale che proprio davvero è di offesa alle istituzioni è, secondo me, abbastanza incomprensibile. Indubbiamente però, insomma, il significato di questa settimana è un accordo all'interno del PD che all'inizio di questa settimana a pochi di noi credevano fosse possibile, non so tu, ma insomma eravamo tutti sì, abbastanza pessimisti, no? Beh, anche se c'erano quelli più cinici o forse più smaliziati che dicevano sì, poi alla fine la minoranza come al solito, abbaia abbaia, ecco. Sì, credo anch'io che poi in realtà tutti pensavamo che alla fine la minoranza non avesse margini politici per condurre una battaglia fino all'ultimo, c'era comunque questa minaccia da parte di Renzi della crisi di governo, che nessuno ovviamente in questa fase voleva, però nemmeno scommettevamo su un accordo così rapido. Sì, non così rapido, sicuramente no. In una settimana improvvisamente si è trovata l'accordo e si è trovato su una mediazione davvero molto minimale. Insomma, io ricordo che a luglio questa proposta di eleggere i senatori attraverso dei listini, quindi collegare comunque la volontà popolare all'elezione dei senatori, era già stata avanzata in realtà dalla maggioranza, da Renzi, dalla Boschi, e in quella fase era stata invece respinta dalla minoranza interna. La sensazione è che alla fine appunto la minoranza aveva capito che si stava infilando in un vicolo cieco, in una strada senza uscita, e quindi alla minima apertura da parte di Renzi ha preferito come dire, cogliere la possibilità di fare l'accordo e chiudere questa vicenda politica sulla quale davvero tutto il PD poi rischiava, in particolare rischiava proprio la minoranza. Diciamo, il motivo del contendere, soprattutto questo articolo 2, no, per l'elettività dei senatori, alla fine si è trovato questo compromesso. Intanto dovrebbero essere 95 i senatori di questo nuovo Senato, sì. 5 nominati dal Capo dello Stato, 74 sono quelli da eleggere, perché poi 21 invece saranno già sindaci, è già deciso che sono dei sindaci, no? Sì. Insomma, l'accordo è stato trovato su questa parola: i cittadini scelgono. Ecco. La questione era l'articolo 2, inizialmente Renzi non voleva toccarlo, doppia conforme, era già stato votato in questa questione dalle due Camere, per cui la regola parlamentare vuole che non si rivotino gli articoli che già sono stati votati in una stessa formulazione da Camera e Senato. Però qui c'era un appiglio, perché in realtà nel passaggio tra Camera e Senato era stato cambiato un nei consigli regionali in un dai consigli regionali. Basta una parolina come nei brevetti, una virgola. Alcuni sostenevano che si dovesse ripotere l'articolo 2. Questa Renzi assolutamente non lo voleva, perché temeva che questa valanga di emendamenti stravolgesse del tutto poi l'articolo 2 e quindi il disegno di legge costituzionale. In conclusione, alla fine si è trovata questa soluzione di modificare solo il comma 5, scrivendo che i cittadini scelgono durante le votazioni regionali, no? Le elezioni regionali hanno un'altra piccola scheda. Ma poi questo lo stabilirà nei dettagli la legge ordinaria. Sì, una legge successiva. Esiste un principio molto generico che può andare bene a tutti e si rinvia poi il confronto più di dettaglio alla legge ordinaria. E si è trovato anche il compromesso sulla data, perché Renzi, diciamo, rappresentato da Zanda del PD, voleva assolutamente l'8 ottobre come data per il voto definitivo, poi si è impuntato grasso dicendo: io non sono mica il boia della Costituzione, perché avrebbe dovuto usare lo strumento della ghigliottina, far fuori in una volta sola tutti gli emendamenti, e quindi si è trovato il compromesso del 13 ottobre. Senti, invece, passando a un altro tema, quello del tira e molla delle pensioni, Padoan ha avuto una leggera apertura questa settimana, sentiamolo brevemente. Il governo è comunque impegnato ad analizzare la questione a partire dalla legge di stabilità e compatibilmente con il quadro generale di finanza pubblica. Poi c'è stato molto interessante anche la denuncia di Tito Boeri, presidente dell'INPS, che ha detto di questa disparità tra uomini e donne anche nel trattamento pensionistico, no? E ha detto: è perché già anche le retribuzioni, gli stipendi durante la vita lavorativa, a parità di qualifica e di mansione, sono maggiori anche del 50% quelli degli uomini. Senti, ma sulla questione esodati e flessibilità ti sembra un'effettiva apertura questa di Padoan? Perché poi dice: bisogna vedere le coperture, quindi... Ma sì, Padoan si sa che è contrario a riaprire il capitolo pensioni, perché quella delle pensioni è, come dire, la riforma anche che in Europa è stata più apprezzata, è quella che dà solidità, diciamo, ai nostri conti pubblici in prospettiva nel medio e lungo periodo. Quindi riaprire quel cantiere rischia anche di indebolire l'immagine dell'Italia nel momento in cui l'Italia va a trattare con l'Europa sulla nuova flessibilità. Quindi Padoan è contrario, però Renzi invece sta spingendo per dare un segnale di flessibilità, per andare incontro alle esigenze degli esodati o comunque di coloro che si trovano magari a rischio di perdere il lavoro nell'ultimissima fase della loro vita lavorativa, dare quindi la possibilità a queste persone di andare in pensione prima, pagando in parte questa scelta, perché comunque la pensione sarà più bassa. Ora bisogna capire se questa penalizzazione basta, come dire, a coprire l'operazione, oppure comunque le casse dello Stato ne avranno un aggravio, costerà in qualche modo questa flessibilità. Inevitabilmente. Fabrizio Forchè, abbiamo proprio pochi secondi per una battuta, se preferisci, o sulla questione immigrazione o sullo scandalo Volkswagen. Proprio una battuta. Lo scandalo Volkswagen, ovviamente, come dire, ci ha dato a tutti un po' di soddisfazione vedere questi tedeschi che anche loro bleffano e imbrogliano nelle loro produzioni industriali, però va detto che è una questione sulla quale gli italiani devono essere anche molto attenti e prudenti, perché l'impatto non è solo sulla Germania, non è solo sulla Volkswagen, ma può essere anche sull'Italia. C'è molta produzione industriale italiana che è di parti di automobili che poi vengono assemblate, quindi l'indotto dall'industria tedesca. Sì, le subforniture italiane verso la Germania nel settore automobilistico è una parte importante della nostra produzione. Certo. Dimmi solo una cosa, Fabrizio: secondo te questa crisi, questo scandalo potrebbe far abbassare i prezzi delle auto? Se qualcuno ci sta pensando, ma quasi il momento giusto per... Ma io questo non credo. Il rischio è che, anzi, ora ci sarà un'ulteriore stretta nei controlli e nelle verifiche, e questo costerà, come al solito ci vanno in mezzo poi costare, perché nella produzione le auto delle case automobilistiche dovranno attrezzare e aumentare neanche la consolazione, insomma. Vabbè, lasciamoci così senza rancore. Grazie Fabrizio Forchè. Ciao Fabrizio, ciao. Adesso ci prendiamo una pausa di ricreazione. Vedevo Clotilde disperata che dice: ma Roberta, cosa abbiamo fatto di così orribile per meritarci questi politici, in primis Renzi che non perde occasione per sparare cavolate, e poi quello che ho sentito adesso tra Salvini e Meloni. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi: Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio: Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella Domenica degli Italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Non so se fra le notizie avete letto questa cosa di questo anchorman della Fox News che al momento di introdurre un servizio sulla Gioconda, sulla Mona Lisa, ha attribuito il capolavoro del Cinquecento di Leonardo da Vinci a Leonardo DiCaprio. Ha detto il famoso capolavoro di Leonardo DiCaprio. Va bene, ci sentiamo spesso defraudati delle nostre opere, anche se la Mona Lisa pare che in realtà Leonardo se la fosse portata in Francia, poi fosse stata venduta al re, eccetera, eccetera. Però insomma, sentirla attribuire a Leonardo DiCaprio un pochino, pare che stia facendo un giro virale, come si dice, del web. Ma noi, Roberto Giordano, sempre con voi naturalmente, andremo tra poco su notizie più serie, vi ricorderò a breve quelle più importanti della giornata e poi approfondiremo questa svolta che c'è stata sull'omicidio dei due fidanzati uccisi a Pordenone lo scorso marzo. Allora, prima le notizie del giorno. Lo scandalo Volkswagen, Müller è il nuovo amministratore delegato, dice supereremo la crisi, e Renzi fa una dichiarazione piuttosto dura, dice è una truffa e va punita severamente. Il Papa all'ONU chiede più casa, terra e libertà per tutti, ampliare la partecipazione alle decisioni e chiede di fermare le guerre nucleari. Accelera l'economia statunitense, più 3,6%, frena intanto la locomotiva tedesca. E poi la svolta della Cina, si sono incontrati all'ONU Obama e il presidente Xi Jinping, il presidente cinese, e hanno rafforzato questo impegno sul clima e anche sul cyberfurti di dati ad aziende. E poi il poliziotto ferito a Napoli, forse è stato un errore di persona, invece dell'altro caso di cronaca della coppia uccisa a Pordenone parleremo tra pochissimo. E c'è anche lo scandalo FIFA che coinvolge anche Michel Platini, pare che prese soldi da Blatter per 2 milioni di marchi svizzeri senza effettuare, per un lavoro non effettuato in realtà, anche se Platini replica quel lavoro l'ho fatto. Quindi dicevamo, questa svolta nell'omicidio dei due fidanzati uccisi a Pordenone, dopo circa 6 mesi di indagine si è arrivati alla svolta in questo giallo. Vi riassumo brevemente la vicenda. Questi due ragazzi furono trovati senza vita il 17 marzo scorso nella loro auto, colpiti da colpi di pistola, nell'auto parcheggiata fuori dalla palestra di pesistica che frequentavano. Lei si chiamava Teresa Costanza, 30 anni, originaria di Agrigento, che si era laureata alla Bocconi marketing e management e dipendente dalle assicurazioni generali. Lui si chiamava Trifone Aragone, 29 anni, di Monopoli nel Barese, era sottufficiale dell'esercito in servizio al 132esimo reggimento carri di Cordenon. La coppia viveva a Pordenone da un paio d'anni e lui era piuttosto conosciuto nell'ambiente della pesistica perché aveva anche ottenuto insomma dei risultati a volte piuttosto soddisfacenti. Beh, c'è stata questa svolta, la notizia di oggi, c'era un indagato, è un amico di Trifone, un militare, come lui, un ragazzo di 26 anni. Le piste seguite in questi mesi erano state molte, si parlava all'inizio anche di un classico, tra virgolette, lo dico amaramente, femminicidio, cioè di omicidio suicidio, di lui che avesse ucciso lei e poi si fosse ucciso, poi però non era stata trovata l'arma, erano state seguite altre piste. Ne parliamo con Roberto Papetti, direttore del quotidiano Il Gazzettino. Buonasera direttore Papetti. Buonasera, ciao. Ciao Papetti. Quindi, diciamo, questa è in sintesi la vicenda. È vero, sì, che tante erano state le piste finora, no? Era stato proprio un vero giallo. C'era stata la pista passionale, c'era stata la pista legata al mondo della pesistica, c'era stata persino una pista mafioso pseudo tale, perché un parente della ragazza in questione aveva avuto dei problemi con appunto organizzazioni mafiose, eccetera, eccetera. Però tutte queste piste a poco erano crollate. E del resto neanche nel caso della persona indagata, su cui tra l'altro gli inquirenti nutrono abbastanza certezze, per il momento ciò che non è chiaro è il movente. Pare trattarsi di un alterco fra fra i due, certamente i due hanno vissuto nello stesso appartamento per un lungo periodo. I due ragazzi maschi. I due ragazzi maschi insieme ad altri ragazzi. Mm. Ma la vera svolta si è verificata in questi giorni con il ritrovamento in un laghetto che si trova vicino al palasport, alla palestra dove erano stati uccisi i due ragazzi. In questo laghetto è stato trovato un caricatore che è compatibile con la beretta usata per uccidere i due ragazzi. Mm. A questi due elementi se ne aggiungono altri due. L'indagato in questione, questo ragazzo 26enne, militare 26enne campano, non ha mai avuto un alibi. Ha sempre detto di aver trascorso la serata a casa da solo. La casa si trova ad alcuni minuti di cammino proprio tra la palestra e il lago. Mm. E quindi dopodiché ci sarebbero alcune telefonate e anche alcuni particolari che riguardano l'auto dell'indagato. Insomma, questi elementi, ovvio che adesso per il momento il quadro è ancora abbastanza incerto, sono elementi che però hanno portato, insieme evidentemente a qualcos'altro di più hard, gli inquirenti, dopo sei mesi di indagini, puntare la propria attenzione su questo militare di 26 anni, il quale ha già nominato un proprio avvocato e anche un perito di parte per l'arma del delitto. Questo appunto è uno dei vari gialli italiani che ha attirato particolare attenzione proprio, sì, appunto per tutte queste ipotesi che si erano fatte. Poi anche lì è stata raccolta una mole impressionante di dati, di incroci sono stati, sì, fatti, no? Beh, certo, ci, cioè, sono state molte ipotesi, insomma. Poi si trattava di due ragazzi, entrambi dei ragazzi, dei ragazzi, una bella ragazza, lui un atleta, lei bocconiana, lui un militare, insomma, avevano tutte felici, le caratteristiche, sì, assolutamente felici, assolutamente innamorati o come tali descritti da tutti. Le modalità erano di una vera e propria esecuzione. I due ragazzi sono stati uccisi con tre colpi di pistola, ciascuno sparati a sangue freddo, e ha una vicinanza, una rapidità estrema, tant'è vero che si era pensato a un killer professionista. Addirittura mandato dall'est, mi ricordo. Sì, se questo contrastava un po' con l'arma usata. L'arma usata è una beretta della Seconda Guerra Mondiale, è stata definita una pistola del nonno dal procuratore. Vedremo, quindi, Roberto Papetti, se appunto sarà confermata questa pista dopo sei mesi di indagini. Ti ringrazio intanto, grazie direttore del Gazzettino. Ciao, buon lavoro. Ciao. Viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E vabbè, qualche errata cordice è anche normale, no? Anche mentre parlo, mi occupo di 3.000 argomenti, dice l'ascoltatore: cosa dici Giordano? Marchi svizzeri. Certamente, i marchi sono tedeschi, franchi svizzeri. Può anche capitare di fare dei connubi strani mentre si parla così velocemente. Adesso infatti vi ricordo molto rapidamente le notizie più importanti della giornata, perché poi avremo altre cose di cui parlare. Il Papa all'ONU, nel suo discorso, Francesco chiede casa, lavoro, terra e libertà per tutti e stop alla guerra nucleare. Poi incontra le famiglie delle vittime dell'11 settembre. Lo scandalo Volkswagen, cambio al vertice del gruppo, arriva Müller dalla Porsche. Berlino ammette: da noi 2.800.000 veicoli irregolari. La svolta della Cina, intesa del presidente Xi con Obama per rafforzare l'impegno sul clima e anche sui cyberfurti. Poi Bielorussia, il presidente bielorusso ha annunciato che verrà eretta una barriera sul confine con l'Ucraina per evitare che il banditismo si diffonda nel suo paese. La coppia uccisa a Pordenone, abbiamo appena parlato di questa svolta nelle indagini. E poi le ombre del calcio, Blatter ancora sotto inchiesta, soldi sospetti anche a Platini, strada di franchi svizzeri, e in Qatar, primi mondiali d'autunno, ci saranno la finale a dicembre. Europa 24 notte. da Polonia, parliamo da Polonia, è entrata a far parte dell'Unione Europea solo 11 anni fa. La Polonia ha sfruttato bene l'opportunità datale dalla storia. In questo periodo il PIL del paese è raddoppiato, mentre gli investimenti stranieri nel paese sono quadruplicati. Da paese di migrazione netta, la Polonia è diventata un paese di riferimento per i migranti extracomunitari dell'est, in primo luogo per gli ucraini. Solo negli ultimi 20 mesi il consolato polacco di Leopoli, prima città dell'occidente ucraino, ha rilasciato 600.000 visti, un numero che dipende anche dalle scelte fatte da Varsavia, quando ha deciso di rivedere le modalità di concessione dei permessi di soggiorno e lavoro in favore di un accesso controllato dei lavoratori stranieri. Gigi Donelli ne ha parlato col capo del Dipartimento Migrazione a Varsavia, Rafał Rogala. The situation is quite calm, yes, but our concern is the situation of IDPs. It's about 1.5 million people internally displaced in Ukraine. So, lungo il nostro confine orientale, come lei ha avuto modo di verificare personalmente durante la sua visita, la situazione è complessivamente tranquilla. Quello che ci preoccupa è soprattutto la situazione degli IDP, gli internal displaced people, gli sfollati dalle regioni dell'Oriente ucraino, il Donbass, dove il conflitto ha già prodotto oltre 1.5 milioni di sfollati. La questione non è dunque legata ai richiedenti asilo, poiché sono in numero complessivamente piccoli. Se prendiamo quest'anno, il 2015, le posso dire che abbiamo avuto in tutto 1.700 richieste di asilo. Ma nello stesso tempo e nello stesso periodo abbiamo avuto 65.000 richieste di regolarizzazione da parte di chi voleva un permesso di lavoro di lunga durata per stare in Polonia legalmente. 65.000 richieste di permessi di vario tipo, a termine o permanenti che siano. Il 75% di tutte queste richieste è stato depositato da cittadini ucraini. Lasci che le spieghi come sono cambiate le cose in tempi molto recenti. Abbiamo cambiato la nostra legge sull'immigrazione solamente nel 2014, lo scorso anno. La nuova legge è entrata in vigore nel maggio del 2014. Con questa nuova normativa abbiamo cercato di minimizzare le condizioni richieste per l'accesso in Polonia. Abbiamo cercato di semplificare le procedure e consentire un canale di migrazione legale in Polonia che organizzasse il fenomeno, riducesse gli ingressi illegali e favorisse da parte dei richiedenti un'attitudine orientata verso l'accettazione del processo amministrativo di concessione dei visti di lavoro a discapito delle richieste di asilo. In pratica abbiamo fatto in modo che le persone che vogliono venire in Polonia sappiano che possono avere il permesso nei tempi e nei modi che il meccanismo amministrativo richiede e che dunque questa strada si rivela per loro più favorevole di quanto non sia quella illegale o anche quella della procedura di asilo. È un sistema che in qualche modo si ispira al modello svedese, dove è possibile avviare una richiesta di asilo e poi traslare la procedura sulla richiesta di permesso di lavoro per migrazione di carattere economico. Per l'immigrato non si tratta di avere una proiezione ampia come quella assicurata a chi si vede riconosciuto il diritto d'asilo, ma si tratta però di un permesso ampio che consente residenza e lavoro. L'effetto di questo emendamento alla nostra legge sull'immigrazione si è manifestato immediatamente, lo dicono i numeri. Mentre nel corso dell'anno precedente, il 2014, il numero totale delle richieste di visti di lavoro ha totalizzato 64.000, quest'anno, e solo alla fine di agosto, le richieste sono già più di 65.000. Anche questi numeri ci dimostrano che il meccanismo sta funzionando e che i migranti si rendono conto che non hanno interesse a tentare la procedura di asilo quando sono in realtà dei migranti economici. Perché è bene ricordare che in Polonia, e in generale in tutti i paesi, avviare una procedura di richiesta di asilo impedisce automaticamente di accedere legalmente a un posto di lavoro. Quindi, se richiedi asilo, automaticamente non sei autorizzato a lavorare. Se invece entri in un percorso amministrativo guidato e volto a ottenere un permesso di lavoro, le tue possibilità diventano più consistenti. Just after submitting this application, ask us about the possibilities of work. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora per sapere che tempo farà in questo fine settimana c'è il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, portatore sano di sole. Ci sarà sole, Paolo Corazzon, è vero? Buonasera Roberto, beh guarda, weekend discreto, mettiamola così, o meglio senza infamie e senza lode. Avremo ancora un po' di nuvole, un qualche residuo acquazzone sul medio basso Adriatico e al sud, ma in via di miglioramento, quindi un po' di sole lo vedremo tutti e tutto sommato temperature accettabili. Più che altro speriamo domenica notte di vedere questa bella eclissi di luna, perché la prossima sarà nel 2033, quindi vale la pena buttare un occhio al cielo nella notte tra domenica e lunedì. Più o meno che ora? Guarda, siamo in notte piena, perché sarà tra le 4 e le 5 la fase massima, comincia alle 2 di notte e finisce alle 7 di mattina. Qualcosa magari riusciremo a vedere. Quindi dai, o per i licantropi o per i romantici, diciamo, o per brava, il tambole anche. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Buon weekend, ciao. Ciao Paolo, ci risentiamo alle 22.